Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. È stata presentata a Bologna nel corso della Smart City Exhibition organizzata da Forum PA l'ICT Rate 2015, la classifica delle città italiane per così dire più smart. Si tratta di una indagine delle più dettagliate ed ampio spettro sulle città italiane, sulla loro capacità di innovazione, sulla loro attrattività e sul loro capitale sociale, a cui dedicheremo questa puntata e anche la prossima. Iniziamo subito dando il benvenuto a Gianni Dominici, direttore di Forum PA, che insieme ad Open Polis realizza ogni anno questa indagine, l'ICT Rate. Buonasera Dominici. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Senta, allora, in questi casi non si può che partire dal podio. Quali sono le città più smart d'Italia? Proprio in maniera secca e diretta, Milano, Bologna e Firenze. Però dobbiamo dire che Milano è cresciuta e sta proseguendo con un buon ritmo. Firenze sta inseguendo con tanta determinazione. Quest'anno Bologna, pur rimanendo la seconda città smart in Italia, quindi senza nulla togliere alla qualità della città, devo dire che ha rallentato. Quindi Milano corre, Firenze rincorre e Bologna un po' rallentato. E poi cosa viene dopo queste prime tre? Viene la prima di quelle che noi abbiamo chiamato le piccole capitali, cioè le città intermedie. Viene Modena, seguita da Venezia, da Parma, Reggio nell'Emilia, Trento, Padova e Trieste. Quindi tante città, diciamo così, medio piccole dopo queste prime tre grandi. Le altre grandi città verranno ancora dopo. E domani ci focalizziamo un po' su queste piccole capitali. Senta, la vostra analisi, così spieghiamo anche come funziona, si dispiega su sette dimensioni. Allora, ce le ricordi e ci dica anche quali sono, diciamo, le relative città primatiste. Allora, la prima è l'economia, economy. Ogni nostra dimensione è divisa tra indicatori tradizionali e smart. Faccio un esempio: andiamo a vedere il grado di produttività di una città oppure il livello di connessione ADSL nelle imprese. Sono tutti indicatori all'interno di economy. La prima è stata Milano, la seconda Bologna e Roma. Roma comunque, nonostante i problemi che poi vedremo, che è una città che è uscita molto in graduatoria, rimane tra le tre poli economici del paese. Stile di vita, seconda dimensione. Seconda è qualità della vita. Qui abbiamo Milano, Bologna e Parma, quindi si introduce una città di piccole dimensioni. Qualità della vita intendiamo indicatori compositi che vanno dall'assistenza sanitaria, alla cura dell'infanzia, alla dispersione scolastica, opportunità di lavoro, eccetera, eccetera. Poi si va ad ambiente. Qui il podio è costituito da Trento, Mantova e Belluno. Questo è un primato delle città medie, non c'è nulla da fare. Appare anche evidente quando parliamo di ambiente, scompaiono le grandi città ed emergono le città di medie dimensioni: Trento, Mantova e Belluno. Passiamo alla mobilità, che invece qui ci aspettiamo che magari siano le grandi città a eccellere. Sì, qui c'è ovviamente Venezia per prima ed è invece no. È prima Venezia, ovviamente per dati strutturali, Venezia per caratteristiche strutturali. Non ci sono le strade. Il 95% della popolazione usa mezzi pubblici, eccetera, eccetera. Poi viene Brescia e poi Bologna. Comunque città già non più piccolissime. Esatto. Capitale sociale? Capitale sociale c'è, devo dire, una sorpresa, cioè la prima posizione. Quello che voi chiamate smart people per certi versi. Capitale sociale, devo dire, c'è una sorpresa perché troviamo una città che, insomma, il luogo comune darebbe come città un pochino fredda, che è Milano. Invece Milano è prima, Bolzano è seconda e Firenze è terza. Considerate che per people intendiamo indicatori tipo partecipazione sociale, livello di istruzione della popolazione, partecipazione a spettacoli, equilibrio tra l'occupazione di genere, eccetera, eccetera. Devo dire anche per esempio l'utilizzo maggiore o minore della tecnologia, quanti hanno l'home banking, cose di questo genere, per cui si capisce che Milano tutto sommato informatizzazione scolastica, diffusione home banking indicatori di questo. Ecco, e poi c'è la governance è la qualità del governo della città. Noi mettiamo dentro indicatori del tipo capacità gestionale, stabilità economica, liberazione dei dati, no? Uso degli open data per esempio, eccetera. Sì, e qui vengono tre campioni nuovi: Firenze, Bologna e Torino per esempio è una città molto impegnata sul tema di open data. Quindi, ecco, infine c'è questa dimensione della legalità che avete introdotto a partire da quest'anno. Come l'avete calcolata e le chiedo se ha spostato molto le classifiche? Sì, una nuova dimensione. Qui le tre città sono le tre città sul podio sono Aosta, Reggio nell'Emilia e Lecco. Abbiamo introdotto degli indicatori importanti, tipo la microcriminalità in città, la diffusione del lavoro nero, gli amministratori minacciati. In parte, devo dire che ha confermato la classifica. È ovvio che alcune città ne hanno risentito, una fra tutte, basta leggere la cronaca, è la città di Roma. Per il resto devo dire che laddove si vive bene, laddove c'è economia, ci sono anche le condizioni per poter lavorare in tranquillità. Quindi insomma si conferma il fatto che la legalità è una delle condizioni di fondo perché poi funzioni anche un po' tutto il resto. Grazie Dominici, ci fermiamo qui, ma continueremo domani ad analizzare questo vostro indice cercando di trovare qualche anche chiave di lettura in più. Buona serata a tutti per intanto. Buona serata.